Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Sulla montagna di Courmayeur in questi giorni è in corso il Courmayeur Noir in Festival, una manifestazione dedicata a libri, film e programmi TV, appunto, noir. Fra i vari libri presentati abbiamo scelto quello di Antonio Scurati, La seconda mezzanotte, pubblicato da Bompiani, un romanzo apocalittico in cui si immagina un futuro inquietante. L'intervista a Scurati è di Marta Cagnola. Courmayeur Noir in Festival insieme ad Antonio Scurati, che qui ha presentato La seconda mezzanotte. Intanto un romanzo ambientato nel 2092, un'Europa sotto il dominio cinese, Venezia addirittura comprata da una multinazionale. Perché questa ambientazione, Antonio? Ma diciamo che io con questo romanzo volevo provare a fare i conti letterariamente, si intende, con questa soglia epocale che sento che stiamo attraversando, insomma, ed è una soglia oltre la quale probabilmente, comunque vada, l'Europa, in particolar modo l'Europa mediterranea, passerà dalla periferia di un impero a un altro, insomma, questa sensazione di un passaggio critico, fortemente critico, che quando io ho cominciato a scrivere il romanzo alcuni anni fa poteva sembrare quasi la fantasia sfrenata, no, di uno scrittore immaginifico, e che oggi invece è banale realismo. E allora l'idea di una città, che poi è la mia città, io sono cresciuto a Venezia, che si trasformi in quello che in realtà già è, però solo spinta un passo più in là verso quell'abisso che stiamo rasentando. C'è una città che in questo simbolo, insomma, della decadenza italiana ed europea, si trasformi in una sorta di Disneyland feroce ed estrema, in un luogo in cui i nuovi potenti, soprattutto venuti da Oriente, vadano a trascorrere pochi giorni di lusso estremo e di vizio sfrenato. Mi sembrava una fantasia, se vogliamo, di tarda decadenza o di apocalisse, che però dialogasse molto intensamente con questo presente che noi stiamo vivendo. C'è qualcosa di molto inquietante. In questo mondo immaginario la popolazione non può riprodursi. E questa è, insomma, un'idea piuttosto sconvolgente. E come ti è nata? Questa attinge semplicemente al mio vissuto. Io sono cresciuto a Venezia nei 20 anni che vanno dal 1969 al 1989. In quel lasso di tempo, in quel ventennio nel quale io sono diventato uomo e adulto, la popolazione residente di Venezia si è dimezzata. È passata da 120.000 unità, come dicono i demografi, parlo di Venezia centro storico, a 60.000, un tasso, diciamo così, di decrescita superiore a quello dei tempi della peste nera. Allora, ovviamente in questo caso aveva altre motivazioni, però non c'è dubbio che questa, che gli studiosi chiamano transizione demografica, no? Che porta l'Europa opulenta verso una fatale diminuzione della popolazione autoctona, sia una delle ragioni della nostra futura povertà economica, o comunque del nostro impoverimento, inutile girarci attorno, ma sia anche uno dei segni inequivocabili di una, come dire, perdita di vitalità, innanzitutto in senso biologico. E insomma, quella Venezia che dimezzava la propria popolazione residente, chiudeva tutti i cinema di prima visione, tutte le librerie, riduceva la sua offerta teatrale ad un'unica sala, una sala e mezzo, chiudeva le scuole e moltiplicava invece i banchetti che vendevano granone per gli uccelli, e in cui ci si arricchiva vendendo granone per gli uccelli e cartoline, insomma, mi sembrava inequivocabilmente un simbolo estremo di quella decadenza che Venezia aveva già simboleggiato da 3 secoli a questa parte, salvo che adesso Venezia non era più soltanto il simbolo della decadenza italiana, ma probabilmente il simbolo della decadenza europea, o comunque dell'Europa mediterranea. Chi sono il maestro e Spartaco? Ecco, il maestro e Spartaco sono le due figure che incarnano, diciamo così, l'archetipo eterno della ribellione. Questa nuova Venezia, appunto rifondata dai cinesi sul relitto della vecchia Venezia, quella che noi conosciamo dopo che è stata sommersa da un'onda alluvionale, è una città, se vogliamo, al tempo stesso cupa ed eccitante. È una città su cui grava una sorta di oppressione totalitaria, perché i nuovi padroni hanno destinato la popolazione residente è una lenta estinzione, hanno proibito ai veneziani superstiti di riprodursi, ma è anche una città estremamente eccitante, una città in cui l'oppressione passa attraverso una forma di divertimento e di dedizione totale ai piaceri e ai lussi sfrenati. Comunque, ecco che due eroi sorgono e si ribellano. Il maestro, che è l'istruttore della scuola dei gladiatori che io colloco nell'isola di San Giorgio, ed è in qualche modo il portatore anche di un codice guerriero e quindi dei valori del vecchio mondo, si ribella trasgredendo a una degli unici tre interdetti, perché a Venezia tutto è concesso, ogni trasgressione è incoraggiata. I veneziani solo tre cose non possono fare: avere dei culti religiosi, portare armi da fuoco, ma perché è incoraggiato l'uso delle armi da taglio, e avere dei figli. Il maestro si strappa da sotto la pelle il dispenser farmacologico che appunto gli impediva di avere dei figli, e quindi si apre la nuova vita. Il suo allievo più feroce e più valente, Spartaco, invece si ribella fuggendo. Scavalca il muro di recinzione che separa la città rifondata dalla città abbandonata e ceduta alla palude, e si inoltra in quella parte della città che si ritiene disabitata e sommersa. Ci sono delle ispirazioni che potremmo magari così vedere un po' come vicine a quelle del cinema e della TV che tu ben conosci in quanto studioso e anche docente. C'è stata qualche ispirazione o da dove sono nate queste idee, anche quasi visive? Ma guarda, uno degli intenti, è vero, uno leggendo questo romanzo, La seconda mezzanotte, ammesso che qualcuno lo legga, la prima impressione che ha è quella di un intenso dialogo con l'immaginario cinematografico. No, vengono in mente per un verso certo cinema della distopia tipo Blade Runner, per l'altro Il Gladiatore, e sicuramente c'è, è presente. A me interessava molto, da un lato, dialogare con l'immaginario cinematografico, l'immaginario della tarda modernità e televisivo, ma dall'altro anche recuperare, diciamo così, le forme originarie della nostra cultura. Cinema hollywoodiano sì, per un verso, ma per altro verso anche il tentativo di fare i conti con le forme originarie della nostra cultura e anche le forme originarie della nostra paura. Insomma, io credo che l'Europa sia veramente ad una soglia, no? Ad una soglia epocale per attraversare la quale deve tornare a interrogarsi sul senso profondo della propria storia e anche sul significato, anche con un certo orgoglio, no? Della propria impresa di civilizzazione che oggi è minacciata sia da Occidente che da Oriente. Ho un'ultima domanda, quasi di rito. C'è un libro o un autore che consiglieresti agli ascoltatori del Cacciatore di Libri? Diamine, sì, beh, insomma, ce n'è più di uno. Devo dire, se devo pensare a dei libri che sono stati preziosi, insomma, nell'ispirare questo mio romanzo, penserei, per un verso. Perché no, si può consigliare un libro filosofico, che io cito anche nei ringraziamenti, che è l'opera filosofica di questo straordinario filosofo europeo, ma ci vuole, no? Di lignaggio tedesco, che si chiama Peter Sloterdijk, che ha mostrato come l'Occidente si sia illuso, soprattutto l'Occidente europeo, in questi decenni di potersi scavare una sorta di nicchia all'interno del mondo globalizzato, una sorta di guscio climatizzato, lo chiamo utero esterno, no? Uno spazio autoimmune in cui lussureggiare in maniera viziosa, eliminando da sé verso l'esterno il conflitto, la storia, il dramma, che è un po' ciò che si cerca di fare a Nuova Venezia. E questo è stato un libro di grande ispirazione che ci illumina anche su delle crudeli illusioni in cui ci siamo crogiolati in questi decenni e che adesso, se Dio vuole, finalmente cessano. L'altro libro è il capolavoro della distopia politica novecentesca, che è 1984 di George Orwell, un libro che continua a parlare al presente e al futuro a dispetto, come dire, dell'uso televisivo e distorto che è stata fatta dalla figura del Grande Fratello. E questo era Antonio Scurati, autore di La seconda mezzanotte, intervistato da Marta Cagnola. Anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.